Euroreportage. Cittadinanza in vendita in Europa. Cresce il business dei passaporti all'asta. Di Livia Zancaner. Un sogno impossibile per le migliaia di migranti che tentano di raggiungere il vecchio continente. Un affare a portata di mano per i miliardari cinesi, russi, africani, per gli sceicchi arabi e i paperoni del Far East. È il business dei passaporti in vendita di quei paesi europei che per fare cassa mettono all'asta la cittadinanza, garantendo di fatto la permanenza sul territorio dell'Unione. Sotto i riflettori non più dunque solo Antigua, Barbuda e Dominica, ma Malta, Cipro, Ungheria, Austria, Grecia, Portogallo, Spagna e così via. Per aiutare i potenziali acquirenti esistono società specializzate. Sui siti si trovano tutte le indicazioni, con la spiegazione sul perché si dovrebbe scegliere un paese piuttosto che un altro, i requisiti richiesti, a volte quasi inesistenti, e i soldi necessari. Una delle mete più gettonate è Malta. A spiegarci in cosa consiste l'Individual Investor Program, Raymond Gatt di MGI, studio di commercialisti e revisori. Il riconoscimento della cittadinanza ai richiedenti e ai loro familiari a carico è sempre soggetto ad un rigoroso processo di verifica delle credenziali, tra cui meticolosi controlli delle referenze dei singoli richiedenti. Devono presentare il casellario giudiziale, certificati medici. Poi i requisiti minimi sono avere almeno 18 anni, dimostrare di avere risieduto a Malta per un periodo di 12 mesi prima del rilascio di un certificato di naturalizzazione e soddisfare determinati requisiti finanziari. Acquisto o locazione di una proprietà immobiliare. La proprietà immobiliare non può essere locata a terzi o sublocata. Una volta che è finito il processo e l'applicante viene accettato, poi deve versare 650.000. Questi 650.000 euro devono essere messi in un fondo di sviluppo nazionale, con una cifra in più per congiunto e figli, 25.000 euro, che diventano 50.000 se i figli hanno tra i 18 e i 26 anni. A questi si aggiungono 150.000 euro in titoli di Stato maltesi e, come ha sottolineato Gatt, la proprietà di immobili dal valore di almeno 350.000 euro da tenere per 5 anni o, se affittati, il canone annuo minimo deve essere di 16.000 euro. In tutto quindi servono 1,2 milioni di euro circa per diventare cittadini maltesi e i candidati devono avere la fedina penale pulita, tanto che il governo dice di condurre controlli criminali con l'Interpol. Ma qual è l'identikit del potenziale acquirente? Possono essere o asiatici, russi o dall'America del Nord oppure dall'America del Sud o africani. Possono essere anche imprenditori oppure persone o famiglie che hanno un grosso patrimonio familiare. E secondo lei perché chiedono di avere la cittadinanza maltese? Chiedono la cittadinanza maltese anche per usufruire dal sistema fiscale maltese. Il governo maltese e le autorità finanziarie stanno facendo tutto il meglio che Malta diventasse un hub finanziario nel Mediterraneo e nel resto dell'Unione Europea. L'Europa ha provato a contrastare questo fenomeno, cioè la vendita della cittadinanza? Ci sono state contestazioni, sì, però alla fine poi l'Europa ha accettato, altrimenti Malta non può fare questa operazione. Il governo ha iniziato a discutere questa cosa, ha lanciato questo progetto nel 2013, poi nel 2014 è stato autorizzato dal Parlamento maltese, nel 2015 hanno iniziato a rilasciare i primi passaporti. Cipro ha iniziato prima, nel 2011, facendo da apripista. Oggi, per diventare cittadino cipriota, ci vogliono 3 mesi e 5 milioni da investire in edifici, aziende, fondi, depositi bancari, titoli di Stato, oppure 2,5 milioni e 6 mesi di tempo. In Austria servono 3 milioni di euro da versare dopo l'ottenimento della cittadinanza. Più facile in Bulgaria, 500.000 euro in obbligazioni, 5 anni e alla fine l'importo verrà restituito. Ma se si si raddoppia l'investimento e si ha la residenza da un anno, la cittadinanza arriva in 24 mesi. In Ungheria bastano 300.000 euro e 5 anni. In Grecia bisogna essere proprietari da 5 anni di un immobile da 250.000 euro. In Lettonia ne bastano 150.000. Il Portogallo, per i cosiddetti permessi di residenza d'oro, facilmente trasformabili poi in cittadinanza, chiede 500.000 euro in immobili, 1 milione di euro investito in capitale o la creazione di almeno 10 posti di lavoro. Sulla stessa linea la Spagna, immobili per 500.000 euro, 2 milioni in titoli di Stato, 1 milione in azioni di società iberiche, fondi o in un conto corrente bancario o un progetto che crei posti di lavoro. Alcuni paesi però negli ultimi mesi hanno alzato l'asticella, come Malta, merito della battaglia avviata nel 2014 da Viviane Reding, allora commissario europeo alla giustizia. Bruxelles però non ha nessun potere né influenza, sono gli stati che stabiliscono le regole, ci racconta l'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo, che fa parte della commissione LIBE, Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni. L'Unione Europea non può intervenire sul rilascio della cittadinanza o meno da parte di uno Stato, in quanto c'è un'esclusiva prerogativa statale, tant'è vero che neanche la Commissione può farsi carico di fare eventuali proposte. È vero però che c'è un'esigenza in qualche modo di uniformità, quantomeno di metodo. Bisognerebbe infatti, come ha detto la stessa commissaria 2 anni fa, che non ci siano delle compravendite economiche sulla concessione della cittadinanza, ma che ci siano invece dei criteri normativi stringenti. Così invece non avviene, questo tipo di meccanismo può avere ripercussioni evidenti sull'intera Unione Europea, ma ci fa subodorare anche il rischio che in alcuni casi ci possono essere anche dei contorni oscuri per quanto riguarda il riciclaggio di denaro. Le proposte potrebbero agganciarsi a quelle su immigrazione e revisione del regolamento di Dublino. Forse non sarebbe del tutto peregrino ipotizzare che si possa affrontare, quantomeno con un atto collegato, anche il tema appunto della compravendita di passaporti, che in realtà è pur sempre, sebbene con delle sue peculiarità, una forma di immigrazione. Sarebbe bene avere dei criteri precisi, effettivamente legati a una presenza stabile sul territorio del paese, ma soprattutto un po' più armonizzati. Mi rendo conto che non possiamo scavalcare le prerogative statali, visto che i trattati prevedono questa ripartizione, però quantomeno si potrebbe stimolare da parte degli Stati membri la volontà di procedere volontariamente. Per Paola Mariani, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università Bocconi, bisognerebbe intervenire sui singoli casi per elaborare principi europei, aspettando che sia la Corte di Giustizia a decidere, ponendo anche dei limiti all'esercizio della cittadinanza. Intervenire sul tema dell'acquisto della cittadinanza è veramente un azzardo oggi. Quello che si potrebbe fare, forse più che intervenire sulle regole, è proprio magari gli stati che controllano, quindi limitano poi l'esercizio delle libertà derivanti dalla cittadinanza dell'Unione Europea nei confronti di quei cittadini che magari hanno acquistato la cittadinanza in altri stati. Si tratta solo di avere dei casi concreti che probabilmente poi si potrebbero sviluppare dei principi a livello giurisprudenziale. Finora diciamo abbiamo avuto una serie di decisioni della Corte di Giustizia che hanno riguardato i casi in cui uno Stato ha deciso di togliere la cittadinanza. La Corte è sempre intervenuta dicendo sì, vale il principio internazionale della sovranità e della libertà dello Stato, però questo va poi temperato con una serie di principi comuni a livello europeo. E quindi si pensa, gli accademici ritengono, che se la Corte dovesse essere investita di una questione che invece riguarda la cittadinanza, come quella dell'acquisto, probabilmente lì si potrebbero sviluppare una serie di principi europei. Anche perché il fenomeno è più diffuso del previsto. Chiaramente il fenomeno più d'impatto è quello in cui ci sono stati che stabiliscono proprio delle condizioni economiche per acquisire la cittadinanza. Però in molti stati, anche in molti stati tradizionali, magari non c'è l'acquisto diretto della cittadinanza, però ci sono regole che condizionano la residenza. per cui si attribuisce la residenza se si fa un certo investimento, e la residenza, diciamo, è l'anticamera poi per la cittadinanza. All'interno del vecchio continente si pone quindi anche un problema di sicurezza, ci spiega l'esperta. L'obiettivo di chi compra la cittadinanza o la residenza per migliaia, milioni di euro non è infatti vivere nel paese in questione, eccezione a parte, ma usufruire della libera circolazione nell'Unione per fare affari o per altri motivi, forse anche meno trasparenti. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.